Perfetto. Lezione del 4 novembre 2010. Va bene. Allora, cominciamo con una rapidissima. Devo fare una rapida inchiesta perché per inquadrare in maniera vagamente decente le questioni del linguaggio, devo sapere. Come dire, sapere su quali credenze o convinzioni condivise da voi posso fare conto. Allora, vorrei gentilmente sapere, tendenzialmente da tutti voi, poi chi non vuole parlare non parla, ma insomma, se l'affermazione che noi siamo degli animali vi crea, diciamo, turbamento, o se vi dà fastidio, o se supponete che sia un'affermazione totalmente destituita di fondamento, o se invece se è una cosa che possiamo dare per condivisa. Finché non sono sicuro che sia condivisa da tutti, devo comunque passare un pochino di tempo a discutere, non a cercare di convincere nessuno, ma allora, gli esseri umani sono animali. Ma nel senso mammiferi. Certo, non certamente lombrichi, ma dico, abbiamo una certa differenza morfo-fisiologica da un no, una cosa scientifica, nel senso. Scientifica, anche fenomenologica, anche se uno non sa un tubo di scienze, se siamo animali. Scusa, quale è stata l'affermazione che non ha L'affermazione è: noi esseri umani siamo animali. C'è qua, no, però prima di andare avanti, ripeto, voglio essere sicuro che sia un'affermazione che poi ognuno magari gli dà la cosa che vuole, però insomma, diciamo, dalla quale possiamo, come dire, partire o no, se non possiamo, perché se c'è qualcuno che andrebbe completata. Andrebbe completata, siamo totalmente d'accordo, è quello che cercherò di fare in questa prima diciamo, lezione, che vada completata non c'è alcun dubbio. Siccome l'unica che mi sa che fa un viso perplesso sei tu, perché straniera. Allora, tu sei di terra? Allora, la parola animale la capisci? Cioè, sai, l'inglese lo parli meglio dell'italiano? Così così? Sì, parlo tutti e due, ma Allora, te lo dico anche in inglese. Human beings are animals. Gli esseri umani sono animali, o noi esseri umani sono animali. È un'affermazione che ti trova d'accordo, ti trova in. Ti trovo d'accordo, quindi su questo possiamo andare avanti. Naturalmente qualcuno diceva che è una definizione che va completata. D'altra parte questa cosa non me la sono inventata io, diciamo ne voi. Uno dei più antichi scrittori nella cultura occidentale che ha affrontato un problema di definizione degli esseri umani, che si chiamava Aristotele, vissuto alla fine del IV secolo avanti Cristo nella gloriosa città di Atene, discepolo di Platone, nella sua opera chiamata Politica, diede una prima, cioè fece una. Come dire, diede una prima specificazione, però usa il termine zoon in greco, animale, per dire l'antropos, l'uomo. Dice antropos esti o este politikon zoon, dice l'uomo è un animale politico. Politico vuol dire un animale che vive in società, che vive insieme con gli altri, non vive da solo, come il granchio chiamato Bernardo l'Eremita, il paguro, o come, ma vive come moltissimi altri animali, però non è l'unico animale che vive in, diciamo, società. Quasi tutti i mammiferi vivono in società, quasi tutti, gran parte, tutti gli uccelli, in certi momenti della loro, quasi tutti gli uccelli, non tutti, certo. In molti momenti della, in, almeno in certi momenti della loro vita, quasi tutti i pesci, i rettili già meno, gli anfibi già meno, però insomma, diciamo, moltissima parte degli animali. Però certamente sarebbe difficile dire del lupo, per non dire dell'orso, o per non dire dell'elefante, che è un animale politico. Il modo che hanno quasi tutte le altre specie animali di praticare la loro dimensione sociale non può essere definita politica. Se noi diciamo, se Aristotele a suo tempo disse che l'uomo è un animale politico, evidentemente è perché individuava delle modalità specifiche di realizzare questa dimensione sociale, cioè questa dimensione collettiva della vita degli esseri umani, che lui chiamava politica perché viveva. In realtà il termine politica, sapete che cosa vuol dire politica? Da che cosa deriva la parola politica? La polis, bravissimi. Quindi, uno dice, siccome deriva la politica si fa solo in città, nelle campagne, i contadini non fanno politica, invece non è vero, la fanno pure loro, ma certamente è vero che, diciamo, questo è vero per la storia della specie umana, storicamente i dispositivi di comunicazione e di formazione di una volontà collettiva, diciamo di organizzazione sociale, cambiano quando cominciano ad apparire le città. Le città, sapete tutti, sono un fenomeno molto recente nella storia degli esseri umani. La specie Homo sapiens conta almeno 250.000 anni, ma per gran parte di questi 250.000 anni non esistono città, cioè non esistono, l'uomo è nomade, non conosce neanche l'agricoltura, quindi vive di caccia e di pesca, ha già una dimensione sociale, perché vive già in gruppi, in piccoli o grandi gruppi, insomma, però relativamente piccoli per quello che rispetto alla dimensione a cui siamo abituati noi, diciamo dell'ordine intorno o anche in genere inferiore o al massimo del centinaio di persone. I gruppi sociali dell'umanità nella sua fase di caccia e di raccolta sono piccoli, non superano le 100 persone. Però a un certo punto c'è una prima grande rivoluzione tecnica, cambiano, diciamo, le cose quando l'uomo scopre, quando alcuni uomini cominciano a scoprire che è possibile agire in maniera particolare su alcuni vegetali che invece di essere colti così come sono possono essere, virgolette, coltivati. Probabilmente di qualche millennio precedente è la scoperta che anche alcune specie animali possono essere in qualche maniera indirizzate, cioè quindi forse la pastorizia è un po' più antica dell'agricoltura, non possiamo essere sicurissimi, ma insomma. E però comunque diciamo che anche la pastorizia prende un altro slancio quando compare l'agricoltura. L'agricoltura compare all'incirca 10.000 anni prima di Cristo, vagamente, e ci mette un po', però dopo poco, quindi all'incirca diciamo 7.000 anni prima di Cristo, compaiono le prime forme di organizzazione che noi possiamo chiamare città. La più antica che si conosca è quella di Çatalhöyük, che si trova in Anatolia e di cui potete vedere dei resti molto interessanti al Museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara. Questa è la prima città una certa città, a noi cioè, probabilmente aveva meno di 1000 abitanti, però per, cioè, per, rispetto alle forme di organizzazione precedenti era già un passo avanti. L'agricoltura mette quasi 7 millenni prima di affermarsi come, per usare un termine di Marx, il modo di produzione dominante. Cioè da 10.000 anni prima di Cristo a 3.000 anni prima di Cristo l'agricoltura coesiste con altre forme, cioè l'uomo non smette totalmente di essere nomade, soltanto alcuni piccoli gruppi qua e là. E naturalmente in questa prima fase l'agricoltura prospera principalmente nelle zone, diciamo intanto nella fascia diciamo temperata, quindi nella fascia compresa tra i due tropici. E all'interno di questa fascia prospera in particolare in alcune zone in cui ci sono una serie di condizioni microclimatiche o ambientali particolarmente favorevoli, per esempio abbondanza di acqua, clima molto mite, eccetera, eccetera. Queste zone sono grosso modo, sono poche le zone del mondo in cui questo accade. Nel Mediterraneo ce ne sono due, uno è la valle diciamo del Nilo e in particolare il delta diciamo del Nilo e quella zona dell'attuale Iraq, tra l'Iraq, l'Iran poco sopra, ma insomma l'Iraq principalmente, in cui scorrono paralleli i due fiumi chiamati Tigri ed Eufrate. In Cina ci sono alcune zone, alcune particolari zone del fiume Giallo che avevano delle caratteristiche simili. L'agricoltura nel, diciamo, dal 10.000 al 3.000 avanti Cristo si sviluppa in poche zone e prevalentemente in queste. Poi verso il 3.000 avanti Cristo succede qualche cosa per cui l'agricoltura rapidamente vuol dire in meno di 1.000 anni, non solo è uno dei tanti modi che hanno gli uomini per procurarsi di che vivere, ma diventa la tecnica essenziale per procurarsi, cioè vince la sua battaglia, diciamo sradica e margina i comportamenti di altro tipo, di quelli nomadi e di caccia e di raccolta. La caccia e la raccolta viene quasi completamente abbandonata perché si coltivano direttamente le cose che servono. La caccia, diciamo, rimane ma non ha più lo stesso ruolo che aveva prima. Che cosa è successo nel 3000 avanti Cristo? E guardate, quasi contemporaneamente in Egitto, in Mesopotamia e in quelle piccole zone della Cina. Che cosa è successo? Che cosa succede 3000 anni prima di Cristo per cui l'agricoltura fa questo salto di qualità? Che cosa potete pensare che sia stato? L'irrigazione. Cosa? L'irrigazione. Quello forse c'era già da prima, forse già un millennio prima si cominciava. Ma nel 3000 succede qualcosa che non c'entra con le tecniche agricole, sembra totalmente diversa. La scrittura precedente, se non sbaglio. Sì? Parla? Sì? La scrittura, se non sbaglio, la scrittura. Nasce la scrittura, non c'è la scrittura prima, non esiste. La scrittura nasce in questi tre posti del mondo contemporaneamente e indipendentemente l'uno dall'altro. Anche l'Egitto e la Mesopotamia, che sono così vicini, hanno due sistemi di scrittura totalmente differenti, per non parlare di quello, i cinesi sono lontani, cazzi loro, è ovvio che sono lontani, ma anche diciamo Egitto e Mesopotamia, che sono molto molto vicini, anche loro. Quindi la scrittura determina una rivoluzione, e così qui vedete che già siamo se riflettiamo un attimo su questa cosa capiamo quindi che ti sei dimenticato di dirci di voi potete rimproverarmi di essermi dimenticato di darvi questa definizione un po' più precisa di quella di Aristotele dell'uomo come animale politico. No, naturalmente ci arrivo, però tutto questo mi serve per arrivare a una possibile definizione, poi non è detto che sia quella giusta, insomma, però, perché da questa storia, allora, voi adesso non ho il tempo di spiegarvi in maniera particolareggiata e approfondita cosa c'entra la scrittura, perché la scrittura determina una diffusione maggiore di prima della agricoltura. Vi posso solo accennare al fatto che una delle conseguenze più importanti dell'agricoltura rispetto alla come dire, economia di caccia e di raccolta consiste in questo, che le tecniche agricole creano un fenomeno che non c'è nelle economie o nei modi di vita di caccia e di raccolta, che è il surplus. Le tecniche agricole consentono di produrre poco o molto, tendenzialmente molto più cibo di quello che la comunità che lo ha prodotto può consumare. Mentre nelle economie o nei comportamenti di caccia e di raccolta, quindi degli esseri nomadi, diciamo di tipo paleolitico, tanto per essere, allora se noi chiamiamo paleolitico il modo di funzionamento che è associato a certi modi e a certe tecniche di scheggiatura della pietra, insomma, che sono a lungo sono stati gli unici utensili che l'uomo abbia avuto, perché grosso modo vedete anche le tecniche di estrazione e di lavorazione dei metalli sono grosso modo un pochino precedenti, ma poi si espandono esattamente nell'epoca in cui comincia la scrittura, quindi diciamo tra il 3000 e il 2000 avanti Cristo. Se decidiamo di chiamare neolitico, cioè epoca in cui raffinano e migliorano le tecniche di scheggiatura della pietra e contemporaneamente cominciano ad apparire le prime tecniche metallurgiche, quindi l'era dei metalli, grosso modo sono sì. In realtà potremmo dire che il neolitico comincia circa forse 15.000 anni prima, diciamo, di Cristo. C'è una breve fase in cui, perché evidentemente anche le tecniche agricole sarebbe stato molto difficile fare agricoltura con le tecniche paleolitiche, cioè col modo di scheggiare la pietra del paleolitico. Anche prima i primi arati, i primi vomeri non sono di metallo, sono di legno o sono di osso, sono di roba di questo tipo, poi arrivano quelli in metallo dopo, insomma, però il modo di procurarsi delle asce di pietra per poter tagliare il legno, eccetera, eccetera, con le tecniche paleolitiche sarebbe stato difficile. Quindi diciamo, potremmo dire in breve che se nell'epoca del paleolitico prevalgono le tecniche, quindi i modi di procurarsi il cibo dati dalla caccia e dalla raccolta, nel neolitico approssimativamente, diciamo più dopo che prima, diciamo grosso modo è nel neolitico che invece compare questo nuovo modo che è la prima vera grande rivoluzione tecnica della storia dell'umanità. Quindi diciamo le nuove tecniche di scheggiatura della pietra suggerite dal nome neolitico vanno riferite principalmente poi a quella che però è la cosa più importante, cioè la comparsa la comparsa e piano piano l'estensione o comunque la presa di importanza sempre maggiore dell'agricoltura. Torniamo alla questione del surplus. Siccome una delle conseguenze più importanti dell'agricoltura è la comparsa di qualcosa che all'epoca della caccia e della raccolta non c'è, le economie di caccia e di raccolta vengono chiamate economie di sussistenza. La gente, i gruppi umani consumano esattamente quello che si, grosso modo, poi buttano via molto, e questo spiega perché poi ci sono gli animali domestici, no? Cioè i cani non sono altro che dei lupi che poca, alcuni di essi, i più mansueti tra quelli, ma soprattutto i più paraculi, che si sono abituati che era più comodo andare a mangiare quello che gli uomini buttavano via del bisonte o del mammut o quando ammazzavano l'animale grosso, che era solo una volta ogni morte di papa, più spesso si mangiavano coniglietti o roba del tipo, perché era più facile prendere, però ogni tanto arrivava pure quello grosso. E scopri che è più facile, ti guarda un po', però perché devo stare lì, devo litigare con gli altri, una volta li mangio i rifiuti, questo, gli uomini cominciano a rendersi conto che è utile avere qualche animale che li avvisa, che c'ha un fiuto diverso dal tuo, sente il pericolo, e quindi c'è una simbiosi, insomma, si trova, eccetera. Tutti e due hanno la loro convenienza e così nascono le... Per lo meno il cane, per quanto riguarda i gatti è molto più difficile capire come dei felini che sono carnivori ma dal comportamento diversissimo dai cani, senza una dimensione di gruppo così forte e così cioè non si capisce cosa. Comunque il gatto viene dopo il cane sicuro, cioè i primi reti che sono trovati, ed è una roba quando siamo a Çatalhöyük, abbiamo detto 7000 avanti Cristo circa, quando arriviamo a Çatalhöyük i cani ci sono già da un bel pezzo, i cani probabilmente vengono fuori già nel Paleolitico, 18.000, 20.000 anni sicuramente, forse anche di più, quindi quando arriva l'agricoltura già c'è una certa abitudine ad averlo. Va bene, allora quella... caccia e diciamo raccolta, economia di sussistenza, si consuma ciò che si produce e non c'è nessun avanzo. Agricoltura surplus, si produce più di quello che si consuma. Se si produce più di quello che si consuma, e mentre la carne è difficile conservarla, prima di scoprire la salatura, i chiodi di garofano, eccetera, per non parlare del frigorifero, che è un po' più recente, gli esseri umani ce ne mettono di tempo. Alcune di queste robe, di queste cose che si coltivano, sono più facili da conservare. Per esempio i cereali. Certo, poi bisogna macinarli, fare la... Però tanto, cazzo, il chicco è lì e che non va male, non è che imputridisce come la carne. Certo, c'è il problema che qualcuno se lo frega, qualcuno se lo può rubare. Certo, metto lì, quest'anno mi ha fatto sto mucchione qua di grano, teniamolo lì, dormo, e tu dormi, arriva l'altro che non c'ha voglia di lavorare, ecco, adesso lo so, mi rendo conto che adesso molti di voi penseranno, ma allora quelli della Lega c'hanno ragione, perché lo so che finisce così. Ora, è vero che bisogna starci un po' attenti, insomma, non è che sia... è una cosa del tutto umana, naturale, che dice, guarda un po', me ne porto a casa un sacchettino io invece di che il mio, quest'anno mi è venuto meno bene. Siccome ancora all'epoca non c'era né la Caritas né gli organi dell'ONU che danno da mangiare a quelli che hanno le carestie, come dire, c'erano meccanismi di compensazione molto più... come dire, insomma, ruspanti, ecco. Naturalmente però nessuno che si fosse spezzato la schiena per tutto l'anno per coltivare, innaffiare, per le cose, eccetera, eccetera, e qualcuno arriva uno e dice, ma eccetera, quindi c'hai una questione di gestione di questo surplus. I più accorti di voi avranno già, insomma, capito che questa è la favoletta che spiega la nascita dello Stato. Non ci sarebbe nessuno Stato, non ci sarebbe bisogno di alcuna, infatti i popoli nomadi non ne hanno bisogno, i popoli paleolitici non hanno alcun bisogno, o i popoli neolitici della primissima fase non hanno nessun bisogno di Stato, di organizzazione politica e sociale come la intendiamo noi. mentre invece, quindi diciamo, lo Stato viene fuori, l'organizzazione non è altro all'inizio che una organizzazione di gestione del surplus, cioè per gestire il surplus si tratta semplicemente di trovare dei luoghi, dei posti, dei contenitori adatti in cui raccogliere e mettere cose così qua, e poi creare un'organizzazione di un certo numero di persone abbastanza robuste, armate di mazzapicchi sufficientemente robusti da poter essere calati con violenza sulla testa di tutti quelli che volessero appropriarsi delle riserve di grano senza averlo coltivato, Naturalmente tutto questo ha alcune conseguenze che invece uno potrebbe pensare che sono sgradevoli. La parte sgradevole della cosa sta nel fatto che mentre nelle comunità di cacciatori e di raccoglitori la divisione del lavoro che c'era stata comunque anche in questi gruppi non si trasforma in differenziazione sociale stratificata e più o meno permanente, invece con purtroppo le cose sono andate così, insomma, forse c'era un modo per non farle andare così, però storicamente sono andate così. La creazione di gruppi di persone specializzati nella custodia e nella gestione però poi soprattutto di queste cose porta con sé una organizzazione sociale fortemente diseguagliaria, fortemente. Non ci sono crisi, non abbiamo, mentre possiamo pensare che le società di cacciatori raccoglitori fossero tutte più o meno tendenzialmente democratiche, nel senso che non c'erano strumenti di organizzazione di un potere di un gruppo di persone sugli altri, fenomeni classificabili come democrazia devono aspettare molto prima di manifestarsi in società di tipo agricolo. La prima e spontanea forma di organizzazione sociale che si manifesta con l'agricoltura è una organizzazione sociale di tipo fortemente diseguagliario, piramidale, gerarchico, addirittura, se posso usare dei termini un po' più contemporanei, dittatoriale e fascista. Cioè, perché non ci sono cristi. Un piccolo gruppo di persone addirittura sceglie una singola persona nella quale dice, questo è il nostro capo, quindi è salta fuori in breve tempo che è figlio di Dio, che è figlio della Madonna, che ha le cose, che ce l'ha più lungo degli altri, che quindi che deve fare tutte le cose. E allora poi si chiama faraone, re, Dio, quello che diavolo sia, insomma, no? Sono faraone, re, scià, si chiama in vari modi, ma questo. E intorno a lui c'è tutto un gruppo di ristretto, poi sempre più vasto, di persone, ma molto minoritario rispetto a tutti quanti, i quali si occupano prevalentemente di funzioni di tipo militare o di tipo gestionale, cioè fare la guardia ai depositi, di grano comuni col cazzo in realtà, perché erano del capo e il capo gliene dava un po' agli altri se era buono, perché questa poi è la cosa, no? Ora ci si potrebbe chiedere come mai le cose sono andate così, eccetera eccetera, o se ci sono ragioni. Io penso che ci siano, è ovvio che ci sono ragioni, insomma, le ragioni non sono tutte nobili probabilmente, anzi sono in gran parte ignobili, perché se si crea una relazione di questo tipo in cui un gruppo di persone ne opprime un altro, penso che di nobile ce ne sia molto poco, insomma, di nobiltà. E quindi vuol dire che in qualche modo queste cose, però hanno fatto leva non che la natura umana generalmente sia, questo è un modo di pensare, ci torneremo dopo molte volte nel corso dell'anno su questo tema della natura umana, ma insomma è un po' troppo semplicistico e poi non. Però certamente ci sono alcune componenti del modo di comportarsi degli esseri umani che adeguatamente fomentate e utilizzate possono giustificare una cosa di questo tipo. Stavo cercando, dimmi. Ma una volta il capo, la figura del capo è nata anche per risolvere controversie tra le varie parti. Questo capita anche al di fuori della Stato. Cioè. Sì, Stato, no, non c'è nulla di simile allo Stato. Per chi vuole approfondire questi temi, c'è un bellissimo libro di Pierre Clastres che si chiama proprio La società senza Stato, in cui si parla dei sistemi di organizzazione sociale nei gruppi pre-agricoli, prima dell'agricoltura. Certo che ci sono i capi, c'erano i capi tribù anche tra gli indiani d'America con pelli rossa, rappresentano un buon esempio di società pre-agricola, loro non conoscevano l'agricoltura e neppure l'uso dei metalli in gran parte, tranne alcune piccole zone, proprio erano dei paleolitici puri, non facevano agricoltura, e avevano un'organizzazione sociale, cioè, però, in genere c'era l'unica vera figura che tu sei sicuro che c'è costantemente in questi gruppi qua, non è tanto quella del capo, dico, quella dello sciamano, certo, è il personaggio che è insieme quello che noi diremo un medico, cioè un guaritore, quello che si occupa di quando la gente sta, come dire, male, e insieme rappresenta la dimensione, diciamo, religiosa, o comunque del rapporto con realtà invisibili, che l'uomo ha sempre supposto che, diciamo, ci fossero, poi che ci siano davvero o meno è un altro discorso, ma cioè, non c'è società che non abbia una dimensione di tipo, chiamiamolo spirituale, religioso, eccetera, eccetera, eccetera. Non ce n'è quasi, poi ci sono diversi modi di... No, è che, attenzione, è che dimensione spirituale non vuol dire necessariamente dimensione trascendente, questo è il problema, cioè è la trascendenza che è, diciamo, c'è una trascendenza politeista che è di un certo tipo, è una trascendenza monoteista, ma diciamo in qualche maniera sia gli dei dell'antica Grecia, cioè o comunque di tutti i popoli indo-europei, quanto le tre religioni monoteiste che invece non hanno origine indo-europea ma hanno origine semitica, perché diciamo gli ebrei erano e sono una popolazione di tipo, diciamo, semitico. Questa è il punto di vista, ma, e comunque ancora oggi ci sono, cioè almeno una grande religione mondiale molto diffusa nel mondo che non ha una dimensione trascendente, che è il buddismo. Ci sono dimensioni che non hanno ha fatto bene il passaggio di tempo, nel senso, i giorni nostri ci sono delle società però organizzate che non vedono la religione o ruoli o personaggi. C'è stato di mezzo l'illuminismo, c'è stato un sacco di cose. Il concetto di religione all'organizzazione statista. Sì, dello Stato sì, però l'immaginario della gente non ne fa meno. Guarda, l'unico grosso tentativo su vasta scala che è stato tentato nel corso del XX secolo di costruire un'organizzazione, diciamo, sociale dichiaratamente atea, anzi positivamente atea, sono state le società cosiddette comuniste dell'est europeo, e vedi che hanno totalmente fallito in quello, perché hanno, come dire, semplicemente represso le manifestazioni visibili della religiosità, ma sotto crollato in breve questo muro di cartone che era il preteso impianto comunista, che il comunismo non l'ha mai visto neanche con il cannocchiale, era un nome che gli davano, ma erano tanto capitaliste quanto quelle occidentali, e più oppressive dal punto di vista politico, quindi è stata una pura e semplice truffa da questo punto di vista, non dal punto di vista di chi ha fatto le lotte, certo, ma dal punto di vista delle elite politiche che le hanno gestite. Bene, loro hanno provato a farlo questa cosa. L'idea della separazione fra Stato e Chiesa, eccetera, che è uno degli ideali dell'illuminismo, cioè della cultura europea del XIX secolo, insomma, c'è, certo che esiste, però questa, come dire, separazione non implica, non vuol dire che l'immaginario religioso sia scomparso dal collante sociale, cioè dai comportamenti reali della gente, in vario modo. Questo c'è ancora. Sei dubbioso tu? Sì, sono dubbioso perché immagino la Corea, per esempio, dove ha una forma dittatoriale molto forte, dove comunque l'immaginario religioso è stato eliminato col tempo. Comunque anche informazioni legate a questa cosa non stanno passando. Dubito che anche in Corea le cose vanno di. Se comunque davvero la Corea fosse così, si tratterebbe di una eccezione di difficile spiegazione anche nel contesto delle civiltà del Primo Oriente, perché le altre due, diciamo, come dire, maggiori, per non parlare di quelle dell'Indocina, invece sono tutte quante religioni, compresa quella cinese, in cui la dimensione religiosa ha una forza, e quella anche giapponese, diversa dalla nostra, diversa da noi, certo. Cioè, che poi, quello che dicevi tu, Allora, tu hai detto stati liberi dall'immaginario religioso, giusto? L'immaginario l'ho allungato io, non l'ho usato. Ok, ma dicevi stati liberi dalla religione, dall'immaginario religioso, non ho capito. Sì. E la cosa che volevo chiederti è, intendi quelli che annullano l'idea di religione, quelli che lasciano, cioè tipo non so in mente la Turchia, in Turchia, cioè la Turchia è uno stato ateo, nel senso che... No, non è ateo, è laico, non è ateo, non è affatto ateo. Cioè tu non puoi manifestare pubblicamente, ma puoi Non puoi, ma vai a Istanbul, vedi, cioè, vai a Istanbul, figurati un po', ci sono le moschee, la roba, la gente, no, no, sì, le no, donne c'hanno anche il velo, diciamo, a Istanbul. Non praticare, ma non puoi, tipo, non so, mettere... Non puoi farne un elemento politico, certo, e infatti il grosso problema della... con la società turca da 10 anni a questa parte, che per la prima volta nella storia di quel paese, che come tu sai è molto giovane perché ne è nato nel 1921, quindi ha meno di 100 anni, per la prima volta ha preso il potere, è stato votato dagli diciamo elettori un partito islamico, dichiaratamente religioso, islamico se non islamista, insomma islamico perché sono poi moderati, non sono cose, cioè, questo gli sta creando un... come dire, terribile dibattito interno, ma non... In questo caso nel senso è laico, ma non nega, cioè quello che non capivo se tu sei laico o ateo. Quello che facevo riferimento io sono delle rivoluzioni che sono avvenute in alcuni paesi dove hanno a un certo punto preso piede le riforme comunque di dittatura, di stampo prevalentemente comunista, nel senso che invece altri stampi dittatoriali, altre religioni le hanno abbracciate e con forza, con impegno reale. In altri stati, tipo in Cina per esempio, anche tutta l'espansione verso il Tibet ha rappresentato per anni comunque la distruzione di quelli che avevano la via di culto, sì, e l'arresto e la detenzione, nonché volendo anche l'uccisione di personaggi di riferimento o pratiche di riferimento. Ma ad esempio in Cina comunque rimangono come sport nazionali, per esempio, l'arte marziale da combattimento, gli sport da combattimento. E hanno un'origine religiosa. E al tempo stesso comprendono comunque quello che è uno dei fondamenti appunto del buddismo, come diceva lui. Però si fermano, hanno un limite che non vede l'investitura di soggetto religioso, il combattente piuttosto che altro, anzi lo punto che, certo, elimina. Tu elimini la libertà, nel senso, mi sembra abbastanza chiaro che se una cosa è imposta non è detto che... Cioè, è il discorso dello scollamento con la società che secondo me non funziona nell'interesse. Non è il discorso con la società, che si sta ricomperando la Cina, la società, oggi come oggi, per esempio. Non la difende, non sta difendendo... quella pratica positivo. Cerca di capire la mia osservazione. La mia osservazione semplicemente diceva che oggi come oggi ci sono dei popoli, delle nazioni che vuoi per scelta popolare, vuoi per scelta dittatoriale, hanno eliminato la figura religiosa come referente di un gruppo, di non è possibile. Scelta popolare, non credo sia possibile. Scelta popolare è proprio represso. Non c'è mai nessuno aspetto, nessuno può essere imposta, come dicevo. Ma non è un vero annullamento, secondo me, del senso. Comunque dubito che tu pensi alla Corea del Nord, non alla Corea del Sud. Perché sono due, quindi è la Corea comunista. Allora, contrasto una con l'altra. Tu aspetta, sono facile profeta. Tu aspetta che crolli, come prima o poi crollerà, il regime cosiddetto comunista della Corea del Nord, e poi vedrai tu se non ridiventano tutti shintoisti, buddisti, che cazzo, perché sotto sotto comunque lo sono. Ma no, è un momento in cui non ci sia più una forza concreta come quella di un Stato. Che erano stati che hanno praticato per una certa fase quel genere, o hanno provato a praticarla in modo più duro all'epoca di Stalin, eccetera. Però nel 1989, appena crolla il muro, vedi che cosa è successo. Cioè, in Cina, sulla Russia, Solzhenitsyn. Accidenti. Allarmamenti con l'America che hanno perso. Ma lascia perdere la guerra con l'America, ma dal punto di vista. Sono storici che hanno un peso. Sì, ma dal punto di vista del sentimento popolare si è visto che in realtà la gente continuava sotto sotto ad essere tanto religiosa quanto prima. Cioè, no, è difficilissimo. Comunque, mi sembra che adesso questo poi è un argomento che era un po' laterale, non è che voglio che prenda, no, va bene discutere, insomma, però però già che l'avete tirato fuori tu e qualche altro, cerchiamo di mettere ordine. Storicamente, dal punto di vista storico, sia dentro il filone della cultura occidentale, sia dentro i filoni di altre culture o di altre civiltà, per tutta una fase il potere politico e quello religioso sono stati fortemente intrecciati, in vario modo, anche prima del cristianesimo. Le polis greche, sono tipici esempi, sono altrettanto teocratiche, erano altrettanto teocratiche dei regimi islamisti di oggi. Cioè, ad Atene perché condannano a morte Socrate? Per gli fanno due, diciamo, accuse. Primo, corruzione dei giovani, secondo, empietà. Cioè, essere un buon cittadino per un ateniese del V secolo, IV secolo, voleva dire sia rispettare le leggi della città, eccetera, ma anche non si può sapere convinti sino a quando, ma perlomeno esteriormente rispettare certe azioni di culto che erano di tipo religioso. I primi cristiani vengono nel primo secolo, secondo secolo, prima dell'editto di Costantino, quando poi diventano religione di Stato e ce lo infilano nel culo a tutti quanti per i 1500 anni, per i 2000 anni successivi, perché così è andata, per i 1700 anni successivi fino ad oggi. Perché veniva condannato il cristiano? Perché si rifiutava di fare i sacrifici all'imperatore o agli dei, come dire, pagani, ma era insieme una violazione di una legge che era insieme civile, questa politica è, diciamo, quindi non ci scandalizziamo adesso noi oggi dell'islamismo, eccetera. L'islam non è altro che viene dopo, e viene dopo che il cristianesimo per 1700 anni ha fatto di questo la sua cosa. Cioè il cristianesimo, certo, come dire, nessuno nega che siano nella grande diffusione del cristianesimo nel mondo tutta una serie di motivi che non sono solo quelli militari, quelli di ambizione, però in gran parte ci sono stati anche questi. Cioè, mentre il buddismo obiettivamente deve la sua grande dimensione mondiale quasi esclusivamente alla forza di penetrazione del suo immaginario, perché non è quasi mai stato sostenuto da potenze politiche di una certa, cioè in gran parte sono. Poi ci sono altre, questi sono movimenti sociali, movimenti di costume, ok, ma insomma non c'è, nessuna religione politeista o, come io dico, atea, cioè il buddismo è una religione atea, perché non c'è Dio, non c'è un'idea di Dio, c'è la natura, c'è le cose, ma insomma, c'è l'equilibrio, ma Dio non c'è, quindi è una religione atea. Nessuna religione di questo tipo ha mai manifestato la vocazione imperialista e, sottomettitrice delle religioni monoteiste. Tranne la prima, tranne la più, diciamo, antica, l'ebraismo, che è sovranamente refrattario e indifferente all'idea di convertire nessuno, nessun ebreo vuole convertire, perché loro sono il popolo eletto, semmai saranno per i cazzi loro, gli altri fatevi con quello che vogliono. Altre due, perché la loro storia è quella, perché c'erano un sacco di... perché comunque hanno avuto una fase in cui sono stati per breve tempo la potenza militare egemone, dopo averle prese da tutti, perché le hanno prese da tutti, ai tempi di Davide, quindi fra l'800 e tra il 700 e il 600 a.C., prima con Davide, poi con Salomone, diventa, poi dopo vanno a culo, insomma, però... Dopo l'affermazione che sto dicendo io adesso sarebbe da approfondire, però sì. Sapevo anche che, ad esempio, il fatto che Cristo si presentò come figlio di Dio non è una cosa così fuori dal comune dell'ebraismo. È complicato, è complicato. C'è un dibattito enorme su questo. Per motivo che Yahweh comunque è una divinità, sì, certo. E vale, farà vale, no, no, no, però no. Comunque, diciamo... strangolo combattente. Però da un certo punto di vista, storicamente poi nell'Occidente, l'ebraismo è l'unica religione monoteista non, diciamo, invasiva. Le altre due religioni monoteiste, cioè quelle che derivano dal cristianesimo e islam, invece hanno una virulenza, ecco l'unico altro esempio che potrebbe essere portato contro questa tesi mia è un certo rapporto che c'è stato in qualche periodo della storia dell'India, in alcuni regni dell'India c'è stato a volte un uso politico della religione induista, ma per quello che ne so io niente di paragonabile alla vasta scala con la quale lo ha praticato il cristianesimo, siccome il cristianesimo è stato poi per quasi 10 secoli, 7 secoli insomma, è stata l'unica religione monoteista in espansione nel bacino del Mediterraneo. L'Islam si è limitata a ripetere modelli che avevano già messo in opera altri, insomma, e in una dimensione differente, perché tra l'altro c'era una bella differenza tra una religione monoteista che si afferma prevalentemente in climi aridi o in climi desertici e bla bla bla eccetera eccetera, rispetto a una che sta in climi temperati, ma molto diverso. Infatti l'Islam ci ha messo un sacco prima di sottomettere anche popoli vicini che hanno continuato a rimanere politeisti, pagani per usare il senso di termine di giorno. Quindi allora questo intreccio è tipico principalmente delle due religioni monoteiste figlie, cristianesimo e islam. Però all'interno della cultura occidentale la maturazione, la nascita della modernità e la sua maturazione nel corso del XVIII secolo con l'illuminismo porta comunque ad un risultato, e cioè che c'è una contestazione, c'è una messa in discussione di questa di questo modello, e quindi viene fuori nelle società civili, cioè dapprima in società civili vuol dire nel 700 e nel 800 piccoli strati sociali, non grandi strati sociali, poi dopo nel corso dell'Ottocento diventano più grossi, ma ancora nel 700 sono molto molto limitati, però almeno in questi qua viene fuori un movimento di contestazione di questo modello teocratico rigido, no? E quindi viene fuori una nuova filosofia politica e una nuova pratica quindi politica, che è quella della laicità dello Stato. L'esempio della Turchia che hai fatto tu prima perché questo illuminismo, questi ideali di laicità sono rapidamente tracimati dall'Europa in una serie di zone, in particolare nel Medio Oriente. Tutta la storia del Medio Oriente, sia delle popolazioni arabe, Iraq, Palestina, eccetera, sia in quelle non arabe, indo-europee come sono gli iraniani, è nel corso del Novecento è inspiegabile se non tieni conto dell'influenza delle idee laiche dell'Occidente sulle elite culturali e politiche di queste popolazioni. Siriani, quelli che oggi si chiamano siriani, giordani, sono tutti arabi poi loro, quindi arabi, persiani nell'Iran, e turchi, una parte dei turchi parlano un'altra lingua, però erano tutti più o meno di religione islamica, ma nel momento in cui l'impero ottomano si disintegra dopo la prima guerra mondiale, le elite culturali e politiche di tutti quei popoli prendono come ideale e tendenzialmente, possibilmente anche come pratica politica, esattamente gli ideali laici di statualità laica elaborati nell'Occidente, gli ideali illuministi, libera chiesa in libero stato, separazione dei poteri, eccetera. Per un serie di motivi storici quasi tutti falliscono, tutti quanti gli arabi falliscono, poi se vi, nel film questo non c'è, ma se vi leggete il libro di Thomas Silver Lawrence, I sette pilastri della saggezza, da cui è tratto il film Lawrence d'Arabia, capite meglio perché. Perché Lawrence d'Arabia è stato uno di quelli che ha creduto nell'Occidente, cioè dall'Inghilterra in modo ingenuo, certo, che ha creduto davvero alla sincerità di queste promesse, che erano anche promesse a volte pratiche, perché gli inglesi promisero agli arabi davvero di dargli, no, vi aiutiamo, ci date una mano, prima guerra mondiale, contro i turchi che sono i nostri nemici, e noi poi vi daremo l'indipendenza. Se lo presero in quel posto, diciamo, tutti loro, tutta la storia di insomma, Thomas Edward Lawrence, è che Thomas Edward Lawrence, che invece ci aveva creduto davvero, si scaccia come una biscia, diceva, perché mi avete fatto, ci avete sputtanato a me, lui amava l'Arabia per una serie di altri, come dire, motivi, non ultimo dei quali la sua omosessualità, ma vabbè, insomma, diciamo, allora, come dire, l'Occidente tradisce questi qua e i gruppi, diciamo, dirigenti di quelli che poi sarebbero state le elite politiche irachene, giordane, siriane, eccetera, eccetera, però formano dei partiti socialisti, cioè adesso, a parte che poi fosse anche quello che cazzo erano, ma il Baas, iracheno, siriano, cioè nei primi anni negli anni 20 era un partito affiliato all'Internazionale Socialista, era una variante un po' araba, un po', diciamo, arabeggiante del marxismo. In Iran in quegli anni nasce si irrobustisce una società civile, una società, insomma, forte, che porta, poi non c'era lo Shah, non c'era da più, era una repubblica, un regime che poi dopo gli USA fanno il colpo di Stato nella seconda cosa, quando Mossadegh cerca, no, come si chiama, sì, quando cerca di nazionalizzare il petrolio, insomma. Vabbè, e c'è un solo paese in cui, per una serie di stranissimi motivi, questa cosa riesce, ed è la, diciamo, Turchia. Perché riesce in Turchia? Perché la Turchia non riesce, perché la Turchia stranamente era nella stessa situazione in cui stava l'Austria in quel periodo, cioè sia Austria che come Turchia erano il centro di due grandi imperi più o meno, diciamo, contigui, vicini, che si erano affrontati poi per secoli e secoli, l'assedio di Vienna, i turchi nel 1600, eccetera, eccetera. E tutti e due questi imperi vengono sconfitti nella prima guerra mondiale, quindi tutti e due vengono, Francia, Inghilterra e Russia, soprattutto perché era la Russia che ce l'aveva, li fanno fuori, li eliminano come imperi. Però mentre nella zona dei Balcani, questo, vabbè, crea chiaramente casino, eccetera, eccetera, e la zona dei Balcani è quella che aveva dato origine, che aveva innescato la guerra mondiale, però dietro c'erano ben altri, ovviamente, motivi. Come dire, mentre gli austriaci, è come se avessero preso una mazzata in testa e sono stati lì, infatti, sono stati, quando passano poco, meno di 20 anni, circa 20 anni tra la fine della prima guerra mondiale e l'Anschluss, diciamo, nazista dell'Austria. Quando i nazisti 20 anni dopo arrivano in Austria e se la partano e la annettono alla Germania, non c'è neanche mezza foglia che si muove, non c'è neanche mezzo austriaco che alza la mano e dice: scusate, ma che cazzo state a fare qua? Vi togliete dalle palle? No, né zero, niente. Quindi il trauma provoca negli austriaci un ottundimento delle loro. In alcuni giovani, nei giovani turchi, insomma, quelli che erano soprattutto militari dentro l'esercito, questo spiega poi perché c'era, certo, perché c'era quella cosa. Intorno a questo personaggio, diciamo, stranissimo, che era Atatürk, e nei turchi, la Turchia è l'unico paese del Medio Oriente che, come dire, applica in modo quasi integrale questa idea, cioè prende gli ideali di diciamo, laicità diciamo, dell'Occidente e dice: bene, li applico io. Ho perso, non ho più, come dire, l'impero, non ho più l'Egitto, cioè cazzo, l'impero ottomano, cioè c'aveva una parte dei Balcani, una parte c'era l'Afghanistan, tutto il Medio Oriente sino al Nord Africa, cazzo, cioè tutta la parte, diciamo, meridionale del Mediterraneo era tutta ottomana. E qui poi ci sono i miti, come oggi le leghisti che diciamo rimpiangono Maria Teresa senza nessuno di quelli che la conoscessero, perché sono poi, a parte che il figlio di Bossi neanche sa chi era Maria Teresa, pensa che sia la sua amica del pianerottolo vicino, ma insomma però già come so bene cosa fondare, ma che cazzo parlate che non dite. Però è vero che una volta che gli imperi chiudono, diciamo gli imperi multietnici hanno sempre dovuto, e questo in parte è vero, sia l'impero ottomano che quello austro-ungarico, avevano dovuto elaborare in qualche modo dei modelli di tolleranza o di non, cioè non erano terribilmente invasivi, insomma, non avevano questa, però certo, poi su altre cose no, come ovvio, insomma, anche lì, insomma, leggete il libro, non guardate il film in cui queste cose qua non ci sono, se leggete il libro di Norbert Arabia capite un sacco di cose anche sull'impero ottomano, perché lui era stato lì, ci viveva in quegli anni lì. Allora, che cosa succede in, come dire, Turchia? Succede un po' quello che succede con tutti i neofiti, perché questi erano, come dire, c'è poco da fare, non erano europei, insomma, erano, okay, con questo senza nessuno, altro lì che erano più scemi di noi, figuriamoci. Però, come dire, nella elaborazione di Atatürk si vede che il modello laico e, diciamo, democratico è in qualche maniera importato dall'Occidente su di un substrato di abitudini, di cose, eccetera, eccetera, che è un po' posticcio a volte, insomma. E voi sapete, lì è successa una cosa, dunque, i turchi parlano una lingua di origine misteriosa, comunque non indoeuropea e non semitica, sono una lingua totalmente diversa, parente probabilmente del ceppo cosiddetto uralo-altaico. Comunque una bella lingua, per certi versi è più, io non la so, non la conosco, ma insomma per quello che leggo nei trattati di linguistica, con una struttura a volte molto più trasparente, più semplice, anche di molte robe dell'indoeuropeo, causa delle complicazioni strane, eccetera. Però era una lingua che con l'impero ottomano aveva adottato una, diciamo, scrittura araba, quindi la scrittura araba è una scrittura fonetica, però è una scrittura in particolare tipo quella, diciamo, ebraica, che per una serie di motivi non usa le vocali. Questo va bene per le lingue semitiche. Nelle lingue semitiche, arabo, ebreo, eccetera, eccetera, le vocali hanno una funzione particolare, non è che non hanno funzione, però c'è una cosa particolare che adesso ci metterei un casino a spiegarvi, per cui il lettore di una di queste lingue può fare a meno di vedere le vocali, le può in qualche maniera mettere lui. Nel caso nostro non sarebbe possibile, nel caso delle lingue indo-europee non era possibile. Nel caso del turco neanche. Ma i turchi avevano adattato questa scrittura araba ed era 4 secoli, 5 secoli che scrivevano arabo. Una delle cose più impressionanti che fa Atatürk, quando prende il potere lui e il gruppo dei giovani turchi nel 1921, credo, decreta perché una delle cose di modernizzazione era bene, basta con, dice, stacchiamoci dal Medio Oriente, dal mondo arabo che non è il nostro, e occidentalizziamoci, adottiamo l'alfabeto latino, adottano l'alfabeto latino. Chiunque di voi abbia mai visto una frase turca, cioè, è come l'ungherese peraltro, cioè non si capisce, cioè, sono lingue che non sono indoeuropea, hanno altre lingue, l'ungherese, finlandese, il basco, il turco. E in Europa non ce n'è altre, credo, ungherese, finlandese, basco e turco, credo, tutte le altre lingue sono indoeuropee, quindi c'è differenza tra l'inglese, il francese, l'italiano, lo spagnolo, ma e anche il russo, tutte le lingue slave sono tutte lingue di origine indoeuropea, hanno una struttura, una sintassi simile, un rapporto, invece il turco è totalmente diverso. E lui, diciamo, riesce, aiutato dal fatto in realtà che gran parte del paese era analfabeta. Per cui per molta gente imparare a scrivere è consistito nell'imparare a scrivere per la prima volta con l'alfabeto latino. L'alfabeto latino, scrittura araba, non è che cambia molto, se la devi imparare, se la per la prima volta. Però è certo che tutta la parte colta della Turchia nel giro di meno di 4 anni il panorama delle, diciamo, città turche cambia totalmente, perché tutte le scritte in arabo via sostituite da scritte in quel dialetto lì, quindi insomma è stata un'impresa per certi versi titanica. Il punto debole di questa, della cosa turca è stato però, che è quello che gli ha dato un sacco di cazzi per tutti questi ultimi 80 anni, insomma, la Turchia, è stato che dovendo far crescere, diciamo, una forma di Stato formalmente democratica, insomma parlamentare, col Parlamento, diciamo, rappresentativa, volendo marcare con una forza così insomma, precisa, con un gesto così forte la distanza dal, diciamo, passato, avendo in orrore e in, cioè, la costruzione turca è una costruzione molto laica, molto da qualche parte, come dire, doveva la occidentalizzazione, la laicizzazione, anche la democrazia rappresentativa, intendo nel senso di parlamentare, non nel senso di democrazia reale, ma quel modo di eleggere, non avendo un grande radicamento all'interno del paese, non poteva basarsi su una storia come aveva avuto comunque le robe della Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese, due secoli prima, nasce il secolo prima in Inghilterra, il secolo dopo in Francia, nasce sull'onda di una sorta di movimenti molecolari che erano già avvenuti all'interno della, diciamo, società. Quindi certamente poi con tutto questo hanno dovuto tagliare la testa al re, diciamo, d'Inghilterra, e Cromwell ha dovuto fare 20 anni di, diciamo, dittatura, in Francia è andata come è andata, c'è tutto il suo. Però in qualche modo, come dire, nell'Occidente, in Europa, le, diciamo, rivoluzioni, virgolette, democratico-borghesi venivano sull'onda di movimenti reali, popolari, dentro la società. In Turchia nulla di tutto questo, non c'era questa cosa qua. Per cui che cosa succede? Il ruolo di supplenza dell'esercito. L'esercito in Turchia, ai fini della Costituzione, e hanno dovuto cambiarla quest'anno il partito di Erdogan, quando è arrivato 10 anni fa al potere, hanno dovuto cambiarla, perché per Costituzione, mentre da noi, diciamo, in Italia, che non parliamo dell'Italia, va bene, figuriamoci, sono comunque quel pochino che c'è, questa specie di nanetto disgraziato la vuole comunque distruggere pure la Costituzione italiana, quindi vuol dire che gli sta sul cazzo, che non gli va bene, insomma, che non... Comunque, diciamo, in qualche modo ci sono i tre poteri classici, legislativo, esecutivo, giudiziario, più o meno in equilibrio. Ovviamente a Mr. Banana non gli va bene che i giudici siano indipendenti, perché lo beccano in tutte le schifezze che ha fatto nella vita. Mi perseguitano, la cazzo, mi perseguitano, hai fatto il bancarottiere, hai esportato, diciamo, capitali, hai fatto, cioè, che cazzo vuoi, è ovvio che prima o poi ti beccano, insomma, no? Cioè, come c'è altro, dice, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, e non fai se c'è una cosa di Rusconi, bisogna aggiungere, quindi non c'aveva la sua pentola da comunque qui le robe stanno così. In Turchia era difficile fare una cosa del genere, perché noi, e allora prendono l'esercito e dicono l'esercito ha un ruolo garante. È una roba pericolosissima. Turchia è sempre, io sono stato 20 anni fa, credo, è un paese normale, eccetera, però insomma la vedevi 20 anni fa, la presenza dell'esercito, come, e non ci sono cristi, cioè l'esercito era praticamente era una sorta di quarto potere, perché c'erano i tre poteri, a parte i media, insomma, diciamo, ma i tre, come dire, poteri normali ci sono anche in Turchia, ma l'esercito era una specie di potere di riserva, cioè dice, quando, e infatti molte volte quando ci sono stati tentativi di, non diciamo ammorbidire, ma interpretare in maniera diversa il, diciamo, laicismo tradizionale dello Stato turco, l'esercito ha fatto due colpi di Stato con Turchia nel secondo dopoguerra, insomma, dal 1950 al 1900, l'ultimo l'ha fatto nell'80, no? Insomma, ed è su quello poi che sono arrivati, ed è quello loro non avevano capito, questi disgraziati qua, perché c'è poco da fare, sono militari. È meglio che non ne facciano politica, insomma, perché hanno un mitra in mano, cazzo, e se uno fa un mitra, cioè, capito? Se io ho la politica contro di te, tu c'hai il mitra, io il mitra non ce l'ho, e che cosa devo fare? Non è una lotta, cioè, voglio dire, non è una contesa ad armi pari, insomma. Cazzo. Quindi, ed è una roba complicata, difficile, eccetera, eccetera, insomma. Però direi che anche la Turchia dimostra in fondo quanto sia difficile esportare rivoluzioni, democrazie, robe, non si esportano cazzo, le cose o hanno o sono radicate dentro una storia che va avanti così. Voi andate ad Istanbul, Istanbul è una città meravigliosa, perché è una città veramente ibrida, mista, la città più ibrida che io abbia mai visto, però non sono mai stato in questo momento, in quella felice ne siamo di meglio, ma sono, diciamo, in questa zona del mondo, la città più, perché c'è le donne col velo, le donne con la minigonna, quelli che fanno, c'è tutto mescolato, c'è il souk, c'è il Grand Bazar e c'è le cose occidentali, c'è proprio, è una insomma, si vede che è lì, no? Come è proprio giusto, cioè, voglio dire, insomma, Troia sta in qualche, insomma, chilometro sotto i terreni, quella era la zona in cui già dai tempi degli antichi greci c'era il passaggio, il transito, il divenire, le cose che cambiavano, e quindi le zone nelle quali l'intersezione delle cose, le cose si mescolano e quindi acquistano tanto un fascino diverso, insomma, come cioè, per certi versi qualcosa del genere, mi spiace di non averla mai vista, deve essere stata negli anni 30 e 40 del secolo scorso, Alessandria d'Egitto. Non sono mai stato lì, e credo che oggi poi sia una cosa diversissima, ma in quegli anni lì, quando l'Egitto, insomma, prima della Seconda Guerra Mondiale, c'è un bellissimo romanzo, sono quattro romanzi di uno scrittore inglese che si chiama Lawrence Darrell, non Gerald Darrell, Lawrence Darrell, che si chiama appunto Quartetto di Alessandria, che sono quattro romanzi collegati, che hanno dei nomi di persona, mi sembra sia, non mi ricordo tutti. Il primo si chiama Justine, il secondo si chiama Baltasar, non mi ricordo. Sono molto belli, se li trovate, vi capita, leggeteli, perché è un inglese degli anni, sono stati alla fine degli anni 30. E raccontano di questa, diciamo, città nella quale intanto c'era una grandissima componente ebraica, una grande componente cristiana, gli islamici, quindi ci sono le tre religioni monoteiste, che tutte e tre sì, però quando sono, diciamo, le religioni monoteiste, quando sono, no, come dire, non bisogna lasciare da soli. Non è come nella, no, sì, perché quando sono da soli sono terribili, cioè qua in Italia. Insomma, Spagna, insomma, cioè abbiamo la dittatura dei cattolici, che poi più sono, adesso, cioè, la religione cattolica in Italia è finalmente diventata una regione minoritaria, sarà il 20% sì e no, cioè sono tutti battezzati, tutti trovati in chiesa, ma però la gente che pratica la religione è un'infima minoranza, eppure pur essendo minoranza pretendono di dettarci la morale, le regole che vogliono loro, le regole per cosa, ma che cazzo vuoi, parla per i tuoi, io non è che nessuno, cioè, non è che ce l'ho con il pastore tedesco, perché ai tuoi mi può parlare, mi può dire tutto quello che vuole, ma perché me lo deve dire a me, che sono ateo, mi deve dire qualche cosa, come, cioè, qual è la, il modo di fare morale giusto per me, ma saranno cazzi miei, me lo devi dire tu. I cattolici, quando sono minoranza, sono buonissimi, bravi, difendono i diritti di tutti, pigliate uno come McLuhan, Marshall McLuhan, fondatore della mediologia o della sociologia delle comunicazioni, nasce nello stato canadese di Alberta, figlio di un pastore protestante, a 18 anni si converte al cattolicesimo, va ad insegnare a Toronto, elabora una teoria moderna, articolata, buona, perché erano minoranza lì, li mazzolavano tutto quanto il giorno, cioè protestanti cattivissimi, di quelli evangelici duri, e tu sei cattolico, sei minoranza. Diventa maggioranza, i cattolici sono terribili. cioè ti non te ne fa passare uno, sei morto, sei qua dall'altra parte Roma, insomma chiedete a uno già di Roma, diciamo Roma è la città che ha avuto Roma, no, perché ci sono tanti anarchici nelle Marche, nella Romagna, in Toscana anche, cazzo, tutti i posti in cui c'è stato il dominio temporale dei papi, quelli che li hanno provati sulla loro pelle davvero, giustamente sono molto più incazzati degli altri, e poi certamente pure lì andiamo, c'erano anche lì i cristiani, ma insomma, diciamo in Emilia e in Toscana, in Umbria e nelle Marche, i cristiani, prima, adesso sono l'Italia o il popolo delle cosiddette libertà di fare il cazzo che gli pare, probabilmente fra un po' piglieranno anche loro un po', secondo me, per anni e anni, non li hanno, cioè, democristiani in Isma, cioè stati in minoranza, e anche lì, i democristiani in minoranza, io apprezzo moltissimo cattolici e democristiani in minoranza, però in maggioranza no, quindi per questo anche adesso, vabbè, mi avete portato a chiacchierare di 50.000 altre cose, voi siete stanchi? Sì? Però non si può fare. Le prossime volte facciamo pausa solo se cominciamo prima e se andiamo. Adesso stoppiamo per un altro tot di minuti e va bene, cerchiamo di riannodare i fili del discorso. Allora, in realtà ho fatto già dei passi, vi ho già detto un sacco di cose che in realtà sono utili per rispondere alla famosa domanda che cos'è l'uomo, però non abbiamo ancora messo, abbiamo imbastito la trama, adesso cerchiamo di mettere qualche filo per l'ordito, prima o poi il disegno salterà fuori. Non ho finito di spiegarvi bene perché la scrittura è stata così importante per l'agricoltura, ma ve lo dico in breve. Perché se il problema principale dal punto di vista sociale dell'agricoltura è quello della gestione di un surplus, è evidente che, come dire, che c'è un problema di organizzazione e poi successivamente di distribuzione e di circolazione di una merce. Che cosa significa questo? Cioè, se uno coltiva solo grano, cosa c'è in quel mucchio grano, in quell'altro grano? Se tu cominci a coltivare già solo due o tre cose è un bel casino. Perché? Perché dopo un po' ti accorgi, certo che è vero che non va male, però se lo tieni all'aperto, quando piove, marcisce, bla bla bla, quindi bisogna metterlo in luoghi chiusi. Se lo metti in luoghi chiusi, in grandi quantità, se vanno via in fretta, bene, se devi gestire, quindi ti procuri dei contenitori, dei recipienti, delle ceste di vimini, delle anfore, delle giare, qualche cosa, e devi metterlo dentro. Allora, ripeto, se è tutto grano, siamo a posto. Quindi una bella giara, la riempi di grano, chiudi grano, chiusi grano. Se c'hai il grano e l'orzo, allora devo fare, facciamo così, quelle di grano mettiamo blu, quelle di orzo le mettiamo gialle. Un giorno a casa ho un cumulo di orzo e non c'ho più cose gialle, come devo fare? Allora gli faccio un segnetto sopra, gli faccio una cosa, vabbè, e già cominciamo a fare i segni, faccio un segno sopra. Dice, ma quella lì com'è? Quella lì cosa c'è dentro? Orzo. Dice, no, ti sbagli. Dice, ma l'ho visto ieri, ma fanculo. Se uno deve ricordarsi cosa c'è messo dentro, già se sono due o tre insieme si litigano, fanno casino, dopo un po' bisogna, allora, e devono tutte le volte apri chiudi, non fa bene al grano, apri chiudi. Ma peggio ancora è quando quest'orzo serve, dice, vabbè, adesso arrivano i soldati, gli devi dare un sacchetto di grano a tutti quelli, allora devi aprire, cioè, ah, gli ho detto, ma questi qua che sono? La compagnia, questo è, chi è questo? Il tenente Gilardoni. Devi segnare, devi scrivere il tenente Gilardoni che l'ha avuto, mi ricordo io che l'ho avuto, e dopo non si ricorda più se Gilardoni l'ha avuta e Gilardelli non l'ha avuta. È meglio, sarebbe meglio avere qualcosa su cui, ma se non c'è la scrittura non c'è neanche il verbo scrivere, non gli viene neanche in mente di dire scrivere, è vero, perché però ci vorrebbe qualcosa di. E quindi la prima fai dei segnetti, poi i segnetti da soli però non bastano perché hai il problema di sapere cosa c'è in una certa giara, in una certa otra, cosa c'è nell'altro. Di questo quanta quantità ne è andata, da quale parte, chi l'ha gestita, qual è il funzionario che gliel'ha data, in modo che se ha sbagliato faccio il culo a lui e non all'altro, e quindi la gente non si incazza, insomma tutti i piccoli e gravi problemi che ovviamente adesso io vedo messi per ridere, ma insomma voi potete ben capire che se c'è un problema è il problema della gestione del surplus. L'agricoltura non può diventare veramente una forza, un modo di produzione egemone se non c'è uno strumento che consente di gestire tutte le operazioni di registrazione e di descrizione di certe operazioni basilari che riguardano questo sovrapprodotto sociale. Ecco perché quindi non è un caso, perché se no sarebbe stato un caso, non è un caso che all'incirca 5.000 anni fa, ripeto, in tre zone del mondo totalmente diverse, che non si conoscevano, Egitto, Mesopotamia, Fiume Giallo in Cina, diciamo, la comparsa della scrittura determina l'espandersi e, diciamo, l'egemonia dell'agricoltura come modo di produzione. Volete fare buio? Fatti vostri, ma non ve lo consiglio perché si rovinano gli occhietti. I miei sono già rovinati, quindi però parlo, vi dico per il vostro. Benissimo, allora facciamo un passo indietro. Facciamo un passo indietro. In tutte queste operazioni, sia in quelle delle società paleolitiche in cui ancora non c'è una struttura sociale così complessa, però comunque ci sono relazioni tra le singole persone, bisogna comunque c'è una cooperazione sociale per fare le cose. Se devi raccogliere delle bacche o devi cacciare un coniglietto, se ce la fai a prenderlo, puoi anche fare da solo. Già, se devi cacciare un mammut, hai bisogno di cooperare con 2, 3, 5, 10, 20 forse persone, più un po' di cani che aiutano sempre. E quindi c'è già una dimensione di cooperazione. Non parliamo poi se viene fuori, diciamo, l'agricoltura, cose quindi, o problemi di organizzazione, diciamo, sociale, eccetera. Il fatto che sia stata la scrittura a determinare, non è stata la causa, ma ha creato la situazione nella quale un modo di produzione, un sistema di procurarsi il cibo preesistente è stato in grado di affermarsi e di diventare egemone. Se è stata la scrittura l'elemento chiave per questo passaggio, questo ci fa riflettere, ci fa pensare a qualcosa dal punto di vista, in realtà, di qual è lo strumento principale con il quale l'uomo costruisce questa sua dimensione sociale. Dillo. No, non era niente. Ah, stai muovendo? Sì, sto muovendo. Ogni tanto muovi il dito. Beh, hai ne tutto il diritto, naturalmente. Non è una cosa socialmente riprovevole. va bene, comunque se qualcuno vuole azzardarsi a... Non penso sia una risposta così difficile, insomma. Su quale sia, al di là della questione specifica della, diciamo, a che cosa ci rimanda la scrittura, al linguaggio, cioè, al linguaggio. Quindi non ci sbaglieremmo da un certo punto di vista, quindi, alla definizione di Aristotele, alla quale potremmo rimproverare di essere troppo specifica, cioè di aver saltato dei passaggi. Cioè, caro Aristotele, tu ci hai detto già quello che è la conseguenza di qualche altra cosa. Che cosa è in realtà che rende possibile? Perché l'uomo può essere un politicon zoon? Perché può essere un animale politico? Perché prima di tutto è un animale sociale, se no come si dice? Parlante, oppure linguistico, animale linguistico, è un animale linguistico. Quindi prima di essere politico probabilmente l'uomo è un animale linguistico, è il linguaggio che quindi la definizione di essere umano come animale politico o animale sociale probabilmente si fonda su una qualità dell'essere umano che precede, che è più basilare, che è più fondamentale, e cioè il fatto che l'uomo sia un animale linguistico. Allora, però, probabilmente adesso abbiamo bisogno di fare una riflessione. Ecco quindi perché, diciamo, lo studio o l'individuazione di quelli che sono i dispositivi fondamentali del linguaggio, attenzione, che forse non sono tutti riconducibili alla funzione comunicativa, forse sbagliamo a dire che il linguaggio è prevalentemente uno strumento di comunicazione. Cercheremo di riflettere meglio su questa cosa adesso, perché adesso detta così può, diciamo, sembrare. Perché la prima obiezione, cioè una obiezione che alcuni di voi potrebbero fare, e alcuni me la fanno a volte durante i corsi nei vari anni, potrebbe essere questa. Sarebbe una obiezione in realtà che presupporrebbe il carattere prevalentemente comunicativo del linguaggio. Cioè, se il linguaggio serve per comunicare, non siamo mica solo noi esseri umani che abbiamo il linguaggio. Tutti gli animali comunicano tra loro, anche il coniglietto e la coniglietta. Magari non si dicono ciò voglia di scopare, però insomma fanno delle cose per cui hanno dei sistemi di comunicazione non verbale, fisico, corporale, movimenti, le danze di corteggiamento degli uccelli, o tutto questo genere di cose quasi, per cui anche gli altri animali comunicano. Allora, io per adesso rimanderò per un istante la discussione se sia corretto, se sia giusto, se sia utile, se sia fondato ritenere il linguaggio principalmente o addirittura totalmente uno strumento di comunicazione. Però direi che se noi riflettiamo un attimo, vediamo che c'è una differenza totale, fondamentale, di qualità, non di qualità migliore o peggiore, ma proprio di diversità, di dispositivo di fondo tra l'uso del linguaggio come sistema di comunicazione negli esseri umani e i sistemi di comunicazione degli altri animali. Una differenza talmente fondamentale, talmente radicale, che mi porterebbe perlomeno a dubitare di poter parlare di linguaggio in tutti i casi. Cioè, nel senso, se fosse vero che anche gli altri animali fossero dotati di qualcosa di simile ad un linguaggio, allora dovrei probabilmente inventare un altro nome per indicare il linguaggio dell'uomo, perché il linguaggio degli esseri umani ha una radice comune a quella di altri, ma a un certo punto poi come modalità di funzionamento se ne distacca, se ne distacca fondamentalmente. Allora, cerchiamo e qui viene fuori, qui ci viene in aiuto, dimmi. Certo, secondo me il linguaggio che diverso da quello degli animali, perché il nostro linguaggio può diventare un metalinguaggio, si può autoanalizzare invece. Fai dei passi avanti da gigante tu, sì, prima o poi si arriverà pure a quello, ma c'è una cosa più banale, più banale e più di base, e più l'interpretazione del codice. Allora, voi sapete che un signore ginevrino, un linguista ginevrino negli anni intorno alla prima guerra mondiale, chiamato Fernando Saussure, faceva dei corsi particolari di linguistica in cui si era inventato lui qualcosa che in realtà si era già inventato un altro signore americano di nome Charles Sanders Peirce, ma detto sì, non lo sapeva, quindi hanno inventato più o meno insieme o in altri la semiotica senza conoscere l'uno, diciamo, dell'altro. Nel caso di Saussure era chiaro che Saussure pubblicava delle altre cose in vita, lui quando è vita, poi quando è morto alcuni suoi allievi hanno detto, ah, abbiamo un po' di, c'ho qua un paio di quaderni dei corsi di Caronia, vediamo se si può fare un libro di quelli, di Caronia no, finora nessuno l'ha fatto, anche perché non sono ancora morto, e però nel caso di Saussure sì, hanno preso questo e hanno pubblicato questo e poi è uscito nel 1921 questo corso di linguistica generale nel quale Saussure ci spiegava che cos'è un segno, tutti sapete che cos'è un segno? Che cos'è un segno secondo Saussure? Sì. Questo. Un elemento è un segno. Questo è della lingua. Un segno dal punto di vista linguistico lui dice la cosa. È un'immagine, no. L'elemento base. Legato al significato. Mi ha legato già al significato. Abbiamo già cominciato a tirare fuori. Già una parolina magica è uscita fuori, certo. È qualcosa che ha a che fare con il significato. Allora, la parola bottiglia è un segno, forse? È un segno la parola bottiglia? No? La parola... Come non si è di segno, ma lui è poi un segno o no? Sì, no. Sì. Allora, è un segno, la parola bottiglia. Bottiglia. Materialmente, che cosa supponete di avere un amico che è arrivato da Vega 4 o da Aldebaran 5 l'altra sera e non parla le vostre lingue? Voi avete un modo stranissimo vostro di comunicare con lui, potete comunicare con lui con la telepatia. Lui non sa cos'è il linguaggio, perché lui parla però. Come gli ricordate, oggi il Caronia ha detto la parola bottiglia. Come gli descrivete la parola bottiglia? Come glielo fate capire? No, proprio banalmente. Lui è uno bravo e sa Contenitore. Qualcosa. Non sa bottiglia, non sa neanche cosa vuol dire contenitore. E allora lo sviluppi. Non una parola, ma un'immagine. Esatto. Io disegni. Ma ci vuole un bel po' prima di collegare la parola. Tu colleghi la parola bottiglia. No, non penso alla parola, penso tu colleghi alla bottiglia. Capito, ma io ti ho detto la parola bottiglia. Io ti ho detto la bottiglia. No, questa roba non c'è, ok, toglila via, mettila via. Empire State Building. Lo so che nella vostra testa si forma una immagine. E quindi vuol dire cosa? Ma Empire State Building, bottiglia, sedia, tutte le cose che ho detto sinora, come sono descrivibili? Quando uno parla, che cosa fa? Che cosa emette? Dei suoni, giusto? Dei suoni. Quindi, intanto per cominciare, nella lingua i segni hanno una caratteristica sostanza sonora. I segni sono dei suoni o, in genere, degli insiemi di suoni, delle sequenze di suoni. Siccome i suoni non sono come le immagini, no? Le immagini le posso far stare vicino, anche la scrittura sta vicina su un foglio. Vedete, se devo dire Mariani Livia, scritto qua, lo vedo d'un botto. Mariani Livia, infatti. Se vedete, devo dirlo, devo dire Maria. Quando dico Mariani, cosa faccio? Articolo, tanti suoni, un suono M, un suono A, poi un suono R, che un cinese ha dei cazzi a capirlo, perché per lui R e L sono la stessa cosa, non perché è scemo, perché nel suo sistema fonetico R e L non si distinguono, quindi M, A, R, I, A, N, I. Guarda un po' che però quando vi dico in sequenza non dico Mariani, prima di sapere che una persona si chiama Mariani può non sapere perché c'è Maria, ma insomma Caronia non ha nessun senso, quindi non è... tavolo c'ha un senso, ha già detto perché, però diciamo anche dal punto di vista dell'articolazione è differente la sequenza M, io non dico M, A, R, I, N, I, dico Mariani, li collego, quindi faccio delle sequenze di suoni. Bene, c'è una serie di condizioni sociali preesistenti per cui io so che Livia Mariani è una sequenza di suoni che corrisponde a una persona. Chi è Livia Mariani? Livia Mariani corrisponde a una persona, Livia Mariani. Conosco la mia amica, Livia Mariani, sì, è una mia amica, siamo stati insieme, sono venuto quest'anno, sì, è una mia allieva, abbiamo fatto l'esempio del no. Livia Mariani è un insieme di suoni che corrisponde a una persona. L'insieme di suoni occhiale, l'H non fa suono, I, A, L, E, occhiali, corrisponde a un oggetto che ha una certa funzione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, se poi dico, i miei occhiali sono zozzi da far paura, oppure sono caduti per terra e si sono rotti, oppure i miei occhiali sono finiti dentro la bottiglia di Livia Mariani. È una frase, corrisponde a qualche cosa, Adesso io faccio vedere, ma tu la racconti. Cioè, oggi il professore cretino ha infilato i suoi occhiali dentro la bottiglietta della mia acqua. Sono tutte sequenze, stiamo facendo tutti gli esempi di segni. Allora, ci spiegava la professoressa. Ci spiegava la professoressa che un segno non è nient'altro che una relazione tra un oggetto materiale, per esempio un suono, o se scrivo un suono o un insieme di suoni, se scrivo un grafema o un insieme di grafemi tracciati su di una pagina, e che però questo insieme di suoni o questo insieme di grafemi sulla pagina richiama alla mia mente qualche cosa che materialmente non c'entra nulla con la sequenza di suoni occhiale o con la sequenza di suoni bottiglia o con la sequenza di suoni Livia Mariani, ma che alla mia mente richiama un oggetto con due stanghette e due pali di vetri, un contenitore di una cosa o una persona umana, una signorina. Quindi questo suono, per esempio, di suoni significano qualcosa. Sono i suoni che significano, perché se non facessi i suoni, se io non dicessi occhiale, non avrei l'immagine mentale che ha. Se non dicessi Livia Mariani, non mi verrebbe in mente quella ragazza con quel viso, con quei vestiti, con quel comportamento che si chiama Livia Mariani. Quindi sono questi che sono il significante. Questo significante è collegato con quello che si tira dietro questo insieme di suoni, che è il significato. Quindi ci spiegava, adesso questa è la definizione di sostituto di segno. Un segno è l'unione inscindibile, lui dice, non si possa, attenzione, io dico io che c'è un significante e c'è un significato, ma se qualcosa è un segno è impossibile separare il significante dal significato. Se io so che Livia Mariani è un nome di donna, l'insieme di suoni Livia Mariani è indiscernibile, non puoi staccarlo da quello. Se tu sai che cos'è una bottiglia, l'insieme di suoni bottiglia ti farà venire in mente automaticamente questo. Quindi non c'è modo di, diciamo, separarli. L'analisi astratta li può separare, ma, spiegava Saussure, il significante e il significato sono connessi tra loro esattamente come le due facce di un foglio. Certo, lo so che sono diverse, ma non le posso separare. Non posso, in senso, voglio solo questa faccia. Voglio solo la faccia con su scritti i nomi dei miei allievi. La faccia bianca non la voglio. Vado in scrittura e dico, per favore, mi toglie la faccia bianca di dietro. Giustamente la bidella telefona al pronto soccorso e dice, professor, caro mia, oggi è più matto del solito. C'è sempre un po' così, ma oggi particolarmente. Quindi sono inseparabili, vero? Inseparabili. così inseparabili che a un certo punto in qualche altro, questo è il segno, in qualche altro momento Saussure scrisse: attenzione, lasciamo perdere, il segno non è né significante, il segno è la barra che c'è in mezzo, è quella barra, è quello che significa che si uniscono, è quello che significa che non ci può essere uno senza l'altro. Quindi un segno è una unione, possiamo dire indissolubile, indiscernibile, per dire, peggio, adesso ne diciamo qualcuna che alla nostra amica iraniana sarà ancora più difficile. È una unione inscindibile, certo, inscindibile, di significante e di significato. È evidente, quindi, che l'operazione del segno, il segno, è un qualche cosa che connette due ordini di fenomeni diversi. L'ordine del significante nel linguaggio parlato è l'ordine del suono, i significanti sono suoni, puri suoni. Nell'ordine del linguaggio trascritto, della scrittura, sono segni grafici, sono tracce di un qualunque materiale, inchiostro di vario tipo, su di una superficie piana. In realtà, sapete, per esempio, i cinesi, uno dei modi più belli che hanno per scrivere, fare calligrafia, è questi grandi pennelloni, e scrivono sulla sabbia. Se avete visto il film Heroes di qualche anno fa, avete alcune bellissime scene di questi che dipingono le loro, tracciano i loro segni, che sono molto più belli dei nostri, perché sono basati su un sistema, non è una scrittura fonetica, quindi è una scrittura pittografica o ideografica. Quindi c'è una materia che mi dà il significante, c'è il mondo, adesso significato, in realtà capire cos'è il significante è relativamente semplice, capire cos'è il significato so cazzi, perché ci può essere l'equivoco, cioè ha significato, che il significato è qualcosa che sta nel mondo, che sta nella realtà. Certo. Livia Mariani, oggi fai le spese tu, che ha firmato, quindi è andata così. Livia Mariani è una persona, si sa chi è, si sa chi è Livia Mariani. Qua non occorre essere con Pirandello per stabilire che, per rendersi conto che l'esistenza di Livia Mariani, come quella di Antonio Peronia, è collegata a una serie di assunti che hanno a che fare sì e no con i lineamenti dei nostri visi, ha a che fare con la nostra storia, con delle condizioni sociali, con una qualche sistema di istituzioni che ci ha rilasciato dei fogliettini in cui c'è scritto che noi siamo effettivamente questa certa persona. Cioè, è una questione complicata l'esistenza di un'altra persona, di un essere umano come un'altra persona. E in realtà io oggi ho conosciuto, stasera sono con i miei amici, oggi ho conosciuto una delle mie allieve, si chiama Livia Mariani. E c'è un significato di Livia Mariani in quel momento, in quella bettolaccia sozza in cui stasera andrò a sbevazzare e a chiacchierare con della gente, e gli dirò: una mia allieva si chiama Livia Mariani. Non c'è Livia Mariani, non ci sei tu. Però richiamami qualcosa. Cioè, allora, e che cosa ci sarà? Allora, in quel caso, che cosa devo dire che è il significato Livia Mariani? Il significato Livia Mariani è il mio ricordo di questa ragazza conosciuta oggi. Quando parlo di occhiali e non ho un paio di occhiali in mano, sono le mie conoscenze sugli occhiali, quindi in qualche maniera qualcuno ha detto un'immagine mentale, certo, un'immagine mentale. È una cosa, attenzione, il termine immagine in questo caso è veramente di una equivocità terribile, perché noi col termine immagine intendiamo, indichiamo sia le cose chiamate immagini, che sono quelle di cui parleremo poi nel corso di quest'anno, che sono semplicemente un insieme di segni in modo un po' diverso da come si usa lì, ma insomma sono dei segni grafici, segni, un insieme di segni che richiamano qualche altra cosa, ok? Possono essere, li posso fare, li posso produrre su un foglio di carta, li posso produrre con un con uno strumento tipo matita o penna, o con uno strumento molto più complicato tipo macchina tipografica. Oggi posso farlo con un computer e posso fare sia l'una che l'altra cosa in qualche maniera, posso fare immagini in movimento, posso fare di tutto, sono tutte immagini che però vivono al di fuori di me. Sto cazzo di leone qua, se anche io non lo guardo, se nessuno di voi non lo guarda, c'è lo stesso, più o meno, possiamo essere sicuri. Qualche filosofo non era del tutto non fu del tutto convinto di questa natura della filosofia, ma noi passiamo per il momento che Berkeley riposi in pace, diciamo che il leone c'è, esiste il leone. Indipendente da me, questa è una immagine nel senso. Ma il mio ricordo, io come sempre stasera, ne faccio stasera, oltre che parlare di Lino Mariani, dirò pure, oggi ho visto un leone su Exibark, la proprietà dell'ultimo Exibark, o del penultimo, del quartultimo, di che cazzo è, non sappiamo di quando è, novembre-dicembre 2010, no, l'ultimo Exibark, c'ha un leone in copertina, in quel caso leone cos'è? Ci sta il leone lì? No, non c'è nessuno, siamo in un posto dove non c'è nessuno. Sta nella mia testa il leone, giusto? Sta nella mia mente, nella mia immaginazione, me lo ricordo, l'ho visto oggi, a seconda di quanto buono sono ad osservare le cose, lo guardo. Chiameranno dopo. Quindi è fonte di equivoco questa cosa, che si usi il termine immagine sia per i manufatti o gli artefatti o i cosi fatti che siano come diavolo e invece per le nostre immagini mentali. 5 minuti e finisco lezione, scusa. Grazie. C'è una ragione per la quale si chiamano nello stesso modo, come è ovvio, però è anche chiaro che le due cose sono diverse. Se andiamo a vedere contemporaneamente, allora questo è il sorciglio. Se qualcuno vuole approfondire tutta questa prima parte, perché non si sente sufficientemente così, bla bla, eccetera, eccetera, la cosa minima che può fare è andare a prendere la voce semiotica su Wikipedia e se guarda. Meglio se prende quella inglese o quella francese che quella italiana, perché è fatta meglio, questo ve lo dico subito. Però anche quella italiana questa volta non è che vi avvelenate a usare Wikipedia. Come sapete i limiti entro i quali va bene usare Wikipedia, Wikipedia ha una serie di voci, a prescindere da quello che dicono quei signori del cazzo che gestiscono i siti della Wikipedia, questa voce non è fatta bene, queste sono puttanate. Però ci sono alcune voci che sono fatte meglio, altre sono fatte peggio, quindi in genere Wikipedia va benissimo usarlo, però cioè, prima di usare una voce come fonte dovete fare un qualche confronto con l'altra cosa. Adesso siccome non posso dirvi leggere un libro, tutto un libro sulla semiotica, almeno quello, però voglio dire una piccola introduzione alla semiotica e la trovate, potete farla. Qualche anno prima di quando De Saussure definisse il segno come unità indissolubile, come rapporto indiscernibile tra significante e significato, un altro signore dall'altra parte dell'Atlantico, il signor Charles Saunders Peirce, aveva dato della stessa parola segno un'altra definizione. Aveva detto il signor Peirce, che cos'è il segno? Cos'è un segno? Un segno, dice Peirce, è qualcosa, something, che sta, which stands, coglione, che sta per qualcosa, ah, scrivo qua che non si vede. Ah, ok, sto per qualcosa. Possiamo cambiare animale linguistico, non cambiare animale linguistico. Allora, è qualcosa che sta per qualcos'altro. Something who stands for something other. È tanto diversa questa definizione di Peirce da quella che dava Saussure? No. Fate la comparazione. Cos'è il qualcosa di cui parla Peirce? Con il linguaggio di Saussure. Significante. È significante. Significante. Cos'è qualcos'altro? Significante. Significante. Mentre però si capisce che Saussure faceva di professione il linguista, lo studioso di lingue, e Peirce faceva di professione il filosofo e il logico, perché ha scritto anche varie opere, diciamo, di logica. Perché la visione di Saussure mantiene la nozione di segno molto attaccata al linguaggio. La questione di Saussure, la questione di Peirce, che non a caso è Umberto Eco, che è il più importante semiologo italiano, ovviamente, diciamo, aderisce, lui si considera, diciamo, erede della folie Peirce, non più che di quella di diciamo, Saussure. Perché quella di perché la definizione di Peirce sembra più facilmente estendibile, e però è per questo che per me invece è più pericolosa, per questo che io, a diciamo, differenza di Eco, preferisco stare più attaccato alla tradizione linguistica, perché credo che sia... Perché quella diceva, allora tutto è segno nella, diciamo, natura, anche nel naturale, anche al di là del linguaggio, ci sono anche segni che non sono linguistici, questo è vero, come ovvio. L'esempio che tutti, per primo, Umberto Eco, poi lo rendono ancora più modo di tutti, fanno, ovviamente è, voi camminate per una bella strada di campagna, o forse in questo periodo anche per le strade di Napoli, e a un certo punto sentite un odore oppure vedete un filo di qualcosa che si alza, un filo di roba bianca che si alza, del fumo, no? Vedete il fumo e dice, ah, del fumo, e che cosa pensate? Subito ci sarà il fuoco. Qualcosa, il fumo, sta per qualcos'altro il fuoco. In questo tecnologico periodo sarà molto probabile che il fuoco derivi da alcuni cumuli di monnezza adeguatamente artisticamente disposti per le strade della campagna e a cui qualche cittadino a cui gli sono girate le palle ha dato fuoco. Però diciamo, questa è la cronaca. Quindi il fumo è il segno del fuoco. Allora, questo è vero, certo, da un punto di vista generale da un punto di vista di una dottrina generale dei segni, i segni ce n'è a quantità, non a caso se prima che il signor Peirce e il signor De Saussure si inventassero questa roba per cui è nata questa disciplina che si chiama semiotica, o qualcuno dice anche semiologia. Era una domanda. Per una domanda dico che stavo proprio per farle questa domanda, cioè se semiotica e semiologia. Sì, perché dipende, perché gli inglesi dicono semiotics, invece i francesi semiologie, e allora diciamo i seguaci di Saussure dicono semiologia, però in realtà diciamo tutti semiotica, non ce ne porta un cazzo, insomma, non c'è poi nessuna vera, ci sono tante scuole semiotiche, sì, ma possono essere, sì, e in certi casi c'è anche una linea di discriminazione, però diciamo, allora io per delle ragioni che vi dirò poi ho in grande sospetto la semiologia in quanto tale, cioè dubito, primo, che possa esistere, secondo, se esiste, che serva a qualche cosa una teoria generale dei segni, dubito che possa servire, perché crea più equivoci che altro, e nella seconda parte del corso capirete perché. Prima di, io sono convinto che una delle truffe più gigantesche del mondo sia la semiotica della pittura. Io penso che non sia possibile fare semiotica delle immagini in genere, e vi spiegherò perché. Ma perché sono semiologo più che semiotico, sono attaccato a De Saussure più che a Peirce, e soprattutto mi interessano, perché è quello dove volevo arrivare, non volevo lasciare andare via oggi prima di darvi almeno qualche vaghissimo indizio su questa cosa, che cosa è che differenzia il linguaggio dal punto di vista semiotico, il linguaggio umano da altri sistemi di comunicazione degli animali. Perché tutto quello che abbiamo detto sinora, certo, valido anche per gli animali, come no, certamente. Quindi vuol dire che è troppo generico sul linguaggio umano, cioè non ci ha ancora fatto capire dove stare. Anche gli animali fanno dei segni. Quando il gorilla fa è un segno, è un significante, battersi per un significato, vuol dire c'ho i coglioni girati, non ti avvicinare, ti faccio un culo così. Questo è il significato in breve, insomma. Ma nel senso anche negli uomini, cioè a parte gli animali, ma anche negli uomini. Anche negli uomini, anche negli uomini. Se io faccio dei gesti senza parlare, va bene, rimando a qualcos'altro. Certamente. Però adesso ti faccio, visto che l'hai posto tutti, ti faccio la domanda. Secondo te io sarei stato in grado di raccontarvi bene tutto quello che ho detto oggi facendo solo dei gesti? Esatto, infatti. Molto difficile. Finché era la di capirci la Mesopotamia, forse sì, insomma, qualcosa, no, cazzo, ho trovato poi dei concetti, ho fatto delle relazioni, ho fatto una serie di lavori, per quanto superficiali e fatti male li abbia fatti oggi, ma comunque sia, ma anche il tuo panettiere quando ti chiede se vuoi un chilo, se c'è mezzo metro di più, se te lo lascia, se vuoi, se c'hai 5 centesimi da dargli per il resto, cioè cose cazzate, banali, ma te le può dire a segni? No. No, no. Quindi vuol dire che il linguaggio umano ha una potenza, anche soltanto comunicativamente, ha una potenza, ha una capacità di mandare messaggi complessi che i mezzi di comunicazione animali non hanno. Qual è il segreto del linguaggio? Qual è il trucco? Il linguaggio usa un trucco veramente da stronzi, da stupidi, cioè una cosa facilissima, però con questa sola cosa riesce d'un botto a procurarsi. Quale sarà questa cosa? Cioè il nesso, il fatto che... Quale sarà la differenza? Perché il gorilla è difficile al gorilla spiegare la critica della ragion pura di Kant e a molti esseri umani anche, naturalmente. Prendiamo le due a caso, Silvio Berlusconi e Vittorio Sgarbi, difficilissimo spiegare la critica della ragion pura di Kant, certo, ma a molti altri esseri umani invece si può, con un po' di buona volontà e con un po' di circofatica, mentre ad un gorilla proprio non è possibile, e il gorilla mai potrà dirmi non soltanto la Divina Commedia, ma non potrà neanche chiedermi se voglio un etto e mezzo o due etti di zucchero. Perché? No, tecnicamente non può. No, non solo per quello. Potrebbe. Supponi che lui capisca, cosa? Perché? No, guarda. Non spendere parole perché non me ne frega niente. Non lo riguarda. Ma supponi che lo riguarda, supponi che lui si sia fatto passare, cosa possibilissima in questo periodo, pensa sempre a appunto Sgarbi e Berlusconi, si è fatto passare per un essere umano e abbia trovato un posto di lavoro come barista presso un bar, quindi è con il costretto, deve dirlo, cazzo, deve. E non può, non ce la fa. Che cosa gli manca? Gli manca il pollice polivero. Ah, ce l'ha, pollice ce l'ha. Poligenato, la parte è un tipo, ragazzi, è semplice, è banale, è stupida, non dovete veleggiare nel è capace di produrre certi suoni, è capace di produrre più o meno gli stessi suoni, un po' meno belli, un po' meno, è un linguaggio codificato, cioè che cosa vuol dire? Sì, ho capito, è un sistema di segni, un sistema di un linguaggio codificato, un sistema. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire un linguaggio codificato? Ragazzi, non usate una parola. Non le conosco, non lo so, cosa vuol dire questo caso? Spiegate le cose, che ne so, che sono cazzo. Non metto d'accordo con altre persone in maniera. In che maniera? In maniera più. Cioè, nel senso, in maniera non superficiale. Questo accordo in maniera non costituzionale, certo, c'è una convenzione. C'è una convenzione, su che cosa verte questa convenzione? Su un accordo che un tale significato corrisponda, un tale significato corrisponda a un tale significato. Va bene, questo no. c'è anche tra il gorilla. Quando il gorilla fa uno, sono tutti d'accordo intorno a lui che questo vuol dire. Ciò che voglio ritirare ti togliti dalle palle. Se non riesce a produrre dei messaggi troppo complessi. Perché? Perché non può? Perché non ha abbastanza gesti che possa esprimere. Bravo, perché dove lo fa? Dove la fa? Dove lo fa l'accoppiata significato e significato il gorilla? A che livello la fa? Sempre con i suoni. A che livello lo fa? È ad un livello non. Gli manca la signatura? No. A che livello lo fa? Il gorilla dice esatto. E questo vuol dire una certa cosa, dice e ne vuol dire un'altra. Se dice che cosa vuol dire? Tramite l'esperienza, non mette insieme i suoni e quindi non produce parole. Non mette insieme i suoni. Il gorilla vuole fare le cose troppo facili subito, dice un suono, un significato, subito. Quanti suoni ha? 50 suoni, mettiamo. Quanti significati può dire? 50. Ce l'ha in quel posto. Se uno attribuisce un significato al suono di livello più basso, è fregato, perché il numero di suoni possibili, per quanto grande sia, limita il numero di significati. Che scelta ha fatto? Non ha fatto nessuna scelta, l'evoluzione l'ha fatta per noi. Che scelta fa a posteriori l'essere umano? Rinuncia saggiamente a, che vuol dire a? Che vuol dire a? Che vuol dire? Che, vado a Roma. Cosa vuol dire b? Cosa vuol dire b? Niente. Cosa vuol dire c? Rinuncio all'associazione prima. Cosa vuol dire t? C'è qualche raro caso in cui un suono specifico è una parola, ma in una lingua specifica, per esempio e, in italiano vuol dire e, ma in inglese è and. In tedesco è unt, in francese è come in italiano, ma però scritto è un caso. Di norma l'essere umano rinuncia alla scelta più semplice, non pretende che i singoli suoni che costituiscono la catena dei significanti siano direttamente significanti, possono essere significanti solo quando sono combinati. Questa scelta è una scelta stupida, vedi che non c'è né la grande. Uno può anche avere una testa che, però se non ha fatto questa scelta non troverà mai né l'Amleto, né la Divina Commedia e neanche il manuale, un manuale per infilare una pila dentro a un registratore. Non potrà farlo questo lavoro perché non ha il linguaggio. Quindi, diciamo, questo tecnicamente, questa caratteristica del linguaggio umano si esprime col termine doppia articolazione. Ecco perché mi si è illuminato il faccino quando qualcuno di voi ha usato il verbo articolare, perché finalmente è perché il segreto del linguaggio umano è come si articolano i suoni, cioè doppia articolazione significa che c'è una restrizione, una impossibilità, una regola che impedisce ai singoli suoni di avere direttamente un significato. Questa regola impone che il significato si abbia solo, viene assegnato solo alle sequenze più o meno lunghe di suoni. Basta questa scelta così semplice per automaticamente passare da un insieme finito di significati, un suono, un significato, come è in tutti i sistemi di comunicazione animale, a un sistema in cui l'insieme dei significati esprimibili diventa automaticamente infinito. Se voi non mettete restrizioni al numero di suoni successivi, se non dite la Divina Commedia non deve essere più lunga di 120.000 caratteri, eh? Cioè se uscite da Twitter, dal mondo di Twitter o dal mondo delle, cioè se non gli date una lunghezza massima, voi volete produrre catene verbali o grafiche, la scrittura non cambia molto, no? Perché sono semplicemente catene verbali trascritte secondo un certo codice, certo. Allora, tutta la storia del codice deriva da qua, deriva dal fatto che si è fatta che il linguaggio umano non esiste nessun sistema di comunicazione animale che funzioni su questo principio. Questa è la vera differenza da... Detto questo, e ne parleremo le volte prossime, perché mo vi lascio andare perché vi ho veramente ucciso oggi, detto questo, vi dico solo l'ultima cosa, detto questo non vuol dire che il linguaggio abbia un'origine altra, il linguaggio, l'inversione divina. Non è affatto divina, nel senso che il linguaggio è... Uno strumento biologico, è un prodotto dell'evoluzione biologica. A un certo punto, per una serie di motivi, non è facilissimo sapere come, diciamo, perché noi siamo ragionalmente sicuri che Homo sapiens abbia sempre parlato, ma perché Homo sapiens è definito da un certo insieme di dati anatomici tra i quali c'è una capienza cerebrale grande almeno il doppio di quella dei suoi cuginetti gorilla e più grande di quella dei suoi immediati predecessori. Per una serie di motivi che vi dirò probabilmente le volte prossime, io non credo che Homo sapiens sia stato l'unica specie animale che abbia parlato. Secondo me i nostri cugini, Australopithecus and Company, già un milione di anni fa parlavano o comunque usavano sistemi di comunicazione almeno embrionalmente come una doppia articolazione. E lo dico perché in realtà, e ne parleremo la volta prossima, la questione del linguaggio è fortemente connessa con un'altra attività che è tipica degli esseri umani e tipica di nessun'altra specie animale, e cioè la tecnica. E se ho cominciato dalla questione agricoltura, eccetera, è proprio per questo, per familiarizzarvi con il fatto che in realtà questi sono i due piani sui quali l'attività degli esseri umani è sempre andata avanti e sono i due piani sui quali effettivamente non c'è corrispondenza con nessuna specie, animale. Limitazione, tutti imitano, le scimmie imitano, tutti i primati superiori imitano come noi, più di noi e meglio di noi. Le scimmie sono grandissime imitatrici, ma anche gli altri animali, anche il cane ci imita, anche i cosi. Non ho... L'imitazione quando c'è una certa complessità, fisiologica e quindi anche in qualche maniera caratteriale, c'è la cosa. Quindi il linguaggio e la tecnica sono quelle, sono le due cose che caratterizzano gli esseri umani e sono strettamente collegate tra loro. E siccome Homo sapiens non è l'unica specie che praticasse la tecnica, perché gli australopitechi già la praticavano 1,5 milioni di anni fa, io trovo implausibile, improbabile che gli australopitechi non parlassero, perché se scheggiavano la pietra come noi, qualcosa di simile dovevano farlo, perché sennò sarebbe stata una cosa diversa. Va bene, ci vediamo giovedì prossimo e continueremo con questa cosa. Spero per giovedì prossimo di avere già un foglietto meno di questo. Qualcuno che è rilassato che non ha suonato? Le due ragazze in fondo. Signorine, dovete firmare voi? No, non ve ne frega nulla. Se volete firmare, firmate. Noi firmiamo. Qua posso rifiutare.